Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea, Storie di nuovi italiani. Circa 2 mesi fa, un po' di più in realtà, avevamo fatto una puntata in questo spazio dedicata al coronavirus riguardante la comunità italiana di origini cinesi. Facciamo il punto allora con la comunità cinese in Italia in questa puntata. Io do il benvenuto a Marco Wong, consigliere comunale a Prato. Buonasera Marco. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Come sta vivendo innanzitutto la comunità cinese in Italia questo momento così difficile per tutti quanti e che forse voi avevate già sperimentato negli ultimi tempi, quando ancora in Italia c'era perplessità nei confronti dell'epidemia, perché sentivate l'eco delle comunità cinesi di origine? Sì, esattamente. Infatti, diciamo, una buona parte della comunità cinese si è posta in autoisolamento già ben prima che questo fosse obbligatorio dai vari decreti. Sono tutti, nella maggior parte dei casi, isolati in casa. Ci sono alcune eccezioni, tipo, non so, per esempio a Prato c'è un'azienda che lavorava nella moda e che recentemente si è riconvertita alla produzione di mascherine per la regione toscana, però insomma nella maggior parte dei casi le aziende sono chiuse e sono tutti quanti a casa. C'è un clima, insomma, di una certa preoccupazione, forse adesso un po' mitigata rispetto all'inizio del lockdown, perché diciamo in quella fase lì c'erano anche molte persone che avevano preso l'ipotesi di tornare in Cina. Insomma, probabilmente adesso c'è un pochino più di tranquillità, anche perché insomma lo stesso governo cinese scoraggia un po' i ritorni, perché insomma in Cina hanno paura un po' della ripresa dell'epidemia per casi di ritorno, che è quello che sta in effetti avvenendo. Lei che notizie ha dalla Cina, dal luogo d'origine dei suoi genitori ad esempio? La situazione lì è abbastanza tranquilla. Sono poi tutta una serie di misure precauzionali, tipo restrizione ai voli in ingresso piuttosto che quarantena obbligatoria per tutti coloro che rientrano. E poi tra l'altro stanno adottando anche delle misure economiche, appunto per scoraggiare un po' questi rientri, per cui per esempio, a parte che i voli diretti sono molto diminuiti, però insomma quelli che ci sono anche molto cari. E poi per esempio diciamo, mentre prima lo Stato si prendeva carico anche economicamente dei costi della quarantena, in questo caso invece, in questi casi invece no, quindi diciamo c'è anche una leva economica, appunto per evitare riprendersi dell'epidemia. Beh, ci sono anche episodi di solidarietà che ci piace segnalare. Ad esempio la comunità cinese di Cremona ha consegnato un'importante donazione al comune di Cremona, 5.000 mascherine, una donazione che è stata fatta da una raccolta in cui ogni singolo cittadino della comunità cinese ha contribuito. Sì, in effetti appunto le mascherine sono diventate anche un simbolo di questa solidarietà, perché diciamo nella comunità cinese in effetti colpiva un po' questa differenza, nel senso che appunto chi indossava fino a non tantissimo tempo fa una mascherina in un luogo pubblico veniva guardato un po' con sospetto. Questa differenza di abitudine, di costumi culturali ha fatto sì che innanzitutto la comunità cinese avesse un po' previsto la carenza delle mascherine e poi insomma si sia organizzata un po' al riguardo, per cui per esempio varie associazioni cinesi hanno fatto delle donazioni di mascherine, insomma, di vari tipi a istituzioni sanitarie e insomma in qualche caso, so, per esempio la chiesa evangelica, le chiese evangeliche anche a Prato hanno organizzato delle donazioni di vicinato, cioè quindi invitavano i propri fedeli per esempio a distribuirle ai propri vicini di casa e quindi per esempio insomma molti si sono visti nella propria cassetta della posta una bustina con mascherine e messaggi di solidarietà in italiano e cinese. Poi appunto l'azienda di cui parlavo, che si è riconvertita nella produzione di mascherine, ha anche fatto una donazione di camici monouso sempre per le strutture sanitarie. Un'altra associazione per esempio ha donato all'inizio del lockdown in Lombardia del materiale disinfettante, così insomma c'è stata una bellissima gara di solidarietà nel donare appunto. Bisogna materiale. Anche precisare che queste gare di solidarietà hanno coinvolto anche altre comunità musulmane in Italia, comunità di altre nazionalità oltre che quella cinese. La comunità cinese a Prato, leggevo che non ha avuto contagi, non ci sono state persone contagiate. Come se lo spiega? Penso che sia dovuto, innanzitutto bisogna anche spiegare che siamo in questa situazione in cui purtroppo i tamponi si fanno difficilmente, per cui per esempio c'erano anche dei cinesi che magari lamentavano insomma dei sintomi, però non sono stati controllati col tampone, quindi insomma può anche darsi che in qualche caso ci sia stato in giro per l'Italia e non sia stato o asintomatico oppure con sintomi lievi. Però insomma ufficialmente appunto di casi non ce ne sono, e questo credo che sia dovuto essenzialmente al fatto di aver adottato soprattutto le misure di isolamento con largo anticipo. L'isolamento che stiamo vivendo in Italia, per quanto faticoso per gli italiani, che tra l'altro si stanno comportando responsabilmente, è molto diverso però dall'isolamento che era stato imposto a Wuhan e in Cina. Dal suo punto di vista è sufficiente quello che si sta facendo in Italia o è un isolamento troppo blando per arrivare a dei risultati importanti? Ma l'isolamento è la misura più visibile e più probabilmente anche più sofferta e condivisa da tutti quanti, però deve essere anche accompagnata da tantissime altre misure che poi devono essere declinate insomma al contesto sociale del paese, per cui per esempio in Cina oltre all'isolamento c'erano tutta una serie di misure di tracciamento delle persone, per cui non so se inserivano i dati sulla propria temperatura all'interno di un'app sullo smartphone, e questo qui faceva sì che uno venisse avvisato per esempio se entrava in una zona in cui c'erano molte persone o febbricitanti o con casi conclamati di coronavirus, oppure nel caso insomma ci fosse la scoperta di una persona positiva grazie a queste app poi si poteva risalire a tutti i contatti che avevano avuto. Chiaramente una cosa di questo genere in Europa, in Italia, non sarebbe possibile, perché verrebbe vista come una grave intrusione nella propria privacy, e quindi insomma alla fine si deve ricorrere ad altri sistemi. Poi, per esempio, abbiamo già parlato dei tamponi, che sono una delle misure con cui appunto si può verificare insomma lo stato di un possibile focolaio e così via. Quindi insomma di cose, di iniziative, misure che sono state prese in Cina, insomma sicuramente alcune possono essere studiate come buone pratiche, però insomma magari per un motivo o per l'altro non tutte quante poi possono essere adottate in altri paesi. Grazie a Marco Wang, consigliere comunale a Prato, per essere stato con noi. Buona serata. Buona serata a voi. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, parliamo questa sera con alcuni rappresentanti della comunità cinese in Italia, degli italiani che hanno origini cinesi, per capire a 2 mesi di distanza dalla chiacchierata che avevamo fatto con loro su quello che stava avvenendo in Cina, qual è la situazione in Italia. Abbiamo Francesco Wu, referente di Confcommercio Milano per le comunità straniere. Buonasera innanzitutto e benvenuto. Buonasera a tutti. Può dire che gli imprenditori di origine cinese, soprattutto nel campo del commercio e della ristorazione, hanno iniziato a sentire, diciamo, a sentire la crisi un mese prima, quando l'epidemia è partita in Cina. Sì. Come mai, secondo lei, Francesco, lei che ha contatti con la Cina, non abbiamo imparato nulla di quello che stava avvenendo in Cina? In fondo noi, quando ci siamo sentiti, sentivamo dalla Cina le notizie di Wuhan, del contagio e della chiusura del lockdown di Wuhan, e stavamo guardando il nostro futuro, eppure non imparavamo nulla dal nostro futuro. Poi abbiamo visto replicarsi questa situazione anche in Europa, dove alcuni paesi ci guardavano qualche settimana fa con perplessità e poi anche loro sono stati costretti a chiudere tutto. Non si impara proprio nulla. Cioè, questa è una bellissima domanda. Una domanda che ci siamo fatti noi, diciamo, dentro la comunità cinese di Milano, confrontavamo con i miei colleghi dentro l'Unione Imprenditori Italia-Cina nel direttivo, e noi dicevamo: ma perché non stanno prendendo provvedimenti seri? Perché i numeri comunque cinesi, e anche il metodo, come si dice, anche il lockdown totale, noi ci aveva già spaventato. Ma perché questo non spaventa la politica, soprattutto italiana? Noi eravamo addirittura un pochettino esterrefatti, se si può dire, diciamo, ma perché? E poi avevamo anche previsto anche tutto l'andamento, ma non perché eravamo dei geni, ma perché abbiamo visto, guardando le curve di crescita dell'epidemia in Italia, che era molto molto simile a quella a quella cinese, no? A quella di Wuhan. In Cina, come si dice, c'è un sistema molto più centralizzato, no? Di controllo sulla popolazione, quindi hanno fatto dei lockdown molto rigidi, addirittura, secondo me, terribili, no? C'è stata una sottovalutazione, perché se avessimo saputo la gravità della situazione, soprattutto qua in Lombardia, avremmo veramente chiuso tutto subito prima. E adesso, secondo lei, l'idea di riaprire dai primi di maggio, dal 4 di maggio, è una buona idea, oppure rivedendo la lezione cinese è ancora presto? Per quanto possa io capire, vedendo anche la curva del contagio, se non stiamo attenti, anche per una città ad esempio grande come Milano, se anche dovesse avere soltanto 20 o 50 contagi al giorno, senza prendere precauzioni, poi questi numeri possono andare fuori controllo. Dunque, maggio riaprire tutto, anche con le dovute precauzioni, io sono ancora scettico. Poi invece l'altra cosa che assolutamente bisogna pian piano permettere è mettere in sicurezza tutte le categorie a rischio, isolare ad esempio gli anziani, far sì che i dispositivi di protezione individuale per la popolazione ci siano, e poi che ci siano i dispositivi di protezione individuale, quelli medici, per tutto il reparto della sanità. E poi secondo me si può piano piano ripartire. Non siamo, io dico noi perché anch'io sono così, non siamo un popolo che può rimanere chiuso in casa altri più di un mese ancora. E quando lei dice non siamo un popolo, intende noi italiani. Grazie. Francesco Wu per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. E per quest'ultima parte della trasmissione siamo con due videomaker milanesi e fumettisti, Chai Rocchi e Matteo De Monte. Buonasera Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Siamo con te, che sei italiano ma di origini cinesi, ti abbiamo sentito più volte insieme alla tua compagna di lavoro e di vita per delle creazioni che tu fai, graphic novel che hai realizzato sulla storia anche dei cinesi in Italia, dei cinesi a Milano, perché oggi parliamo appunto della comunità cinese in Italia, ma anche perché fra pochi giorni, il 3 di maggio, si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa. E a questo proposito tu hai appena realizzato un lavoro, delle tavole di graphic novel che raccontano un po' cosa è stata il giornalismo d'inchiesta, cosa è stata la libertà di stampa. Sì, sono uscite nel numero 347 della Lettura, una mini novel che racconta le origini dei cosiddetti muckraker, dei rastrellatori di letame, insomma questa compagine di scrittori, giornalisti, narratori americani che ai primi del Novecento inaugura questo diciamo modo di fare giornalismo basato su ricerche sul campo e basato su vere e proprie inchieste che in qualche modo raccontavano al grande pubblico tutto lo sporco e la corruzione che affliggeva il sistema americano dei primi del Novecento. Del giornalismo d'inchiesta ci sarebbe bisogno in maniera molto importante anche adesso, e ce n'è bisogno, e molti stanno cercando di scavare su quello che è accaduto ad esempio in Lombardia, ma anche in Cina. Si parla anche di dati opachi che arrivano dalla Cina per quanto riguarda Covid-19. Tu sei italiano ma hai lontane origini cinesi. Come sta vivendo la comunità italiana di origine cinese questo momento così particolare? Per quanto riguarda la cittadinanza, diciamo, di origine cinese milanese, che è quella con cui ho più stretti contatti, devo dire che questa occasione tragica è stata in realtà un momento per dimostrare come insomma questi sino-italiani, italo-cinesi o comunque cittadini milanesi di origine cinese stanno come dire, mostrandosi come cittadini attivi, no? So che per esempio a livello proprio come dire singolo, umano, sono moltissimi i casi e le storie di cittadini di origine cinese che stanno facendo lavori di volontariato. Abbiamo stanno lavorando anche per consegnare queste spese sospese, piuttosto che le associazioni di categoria. Abbiamo sentito Francesco prima, hanno rapporti con le istituzioni, però la cosa che mi è saltata più all'occhio proprio nelle mie relazioni personali è di vedere come forse per una delle prime volte, e li notiamo così tanto proprio per il contesto, i cittadini cinesi di origine cinese sono proprio attivi nel nostro tessuto sociale, no? E questa è la cosa, secondo me, che è più la loro testimonianza in questo momento. È un po' come se il Covid-19 avesse fatto gli italiani finalmente. E in un certo senso sì, infatti volevo dire che oltre a cittadini di origine cinese, per esempio in associazioni di volontariato, ci sono tantissimi cittadini di origine straniera, di origine africana, di origine est europea, di origine centro e sudamericana. Quindi è proprio un'occasione per guardare in faccia la realtà multietnica, diciamo, tout court, anche delle nostre città italiane. Invece per quanto riguarda la censura e il modo di trattare i dati in Cina, tu conosci molto bene la Cina e ci avevi parlato qualche tempo fa della pubblicazione di un tuo libro, se non sbaglio era Primavera-Autunni, in Cina che aveva in qualche maniera subito delle censure o comunque si era scontrato con una mentalità molto diversa riguardo alla libertà di stampa. Anche in questo momento, parlando della Cina, non siamo sicuri dei dati che ci arrivano. Sì, questo è un problema che ho, insomma, questa, diciamo, difficoltà di comunicazione e non solo linguistica, ma proprio anche simbolica, insomma, l'ho affrontata molto bene perché entrambi i nostri libri, sia Primavera-Autunni sia China Man, sono stati pubblicati da un editore cinese molto importante, Dan Dang, un editore di. E insomma, è stata molto. Molto impegnativa la traduzione, ripeto, non solamente riguardante i testi, ma essendo le nostre delle graphic novel, riguardando soprattutto le immagini, i simboli, e vengono in mente moltissime, per esempio, contributi, diciamo, molti contributi di tipo storico-geografico, per esempio le cartine, le mappe tematiche, le mappe storiche che erano nei nostri libri sono state eliminate, per esempio. Ecco, questo è un elemento, come dire, che va al di là della censura di parti testuali del testo. Quindi Quindi un'altra mentalità, un altro mondo, sì, è un altro comunque. mondo, per cui al di là dell'opacità dei dati, che poi è un po' relativa a tanti rapporti, voglio dire, non è che i dati che vengono dalla Russia siano così trasparenti, no? Certo. E così da tante altre parti, abbiamo visto anche da parte della Germania, non si è avuta subito una chiarezza, un'immediatezza di dati, eppure non sono paesi dall'altra parte del mondo. In particolare con l'universo cinese ci sono proprio insomma, dei problemi di ordine, ripeto, simbolico, che poi hanno ovviamente delle ragioni storiche di contesto molto profonde. Molto diverso, molto diverso. Grazie a Matteo De Monte e ringraziamo anche Chai Rocchi che lavora assieme a te per essere stati con noi questa sera. Buona serata. Ciao, grazie a tutti, ciao, buonasera. Buona serata anche a tutti voi che siete stati all'ascolto di questa puntata. Ci risentiamo sabato prossimo alle 21 su Radio 24. Buona serata da Valentina Furlanetto. Ciao.